fuori dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Non ne posso più dei quelli che io chiamo i sepolcri imbiancati, quelli che parlano per luoghi comuni, per... ma meno male che ci sono le persone vere nella vita, basta. E vai. E meno male che ci siamo noi invece a portare avanti la forza dei luoghi comuni. Ma scusa, ragazzi, quali sono le persone vere? Non lo so, dovremmo chiederla da come si chiama? Alfonso Signorini. Ecco, Alfonso Signorini, Alfonso. Mi stava chiediamo già scappando. Chiediamo insieme ad Alfonso. Buongiorno ragazzi, buongiorno ascoltatori di Radio 24. Bentornati su Off Topic. Ciao Riccardo. Ciao Alessandro. Oggi cosa abbiamo sul piatto? Allora, oggi abbiamo un tema che farà gola a molti, perché si parla di soldi. Ah, a te no invece, a gola a molti, a te no? A me fa golissima invece, cioè proprio io sono un avido, veramente. Sì, quanto hai nel portafoglio adesso? Adesso 15 euro. Mi presti 5 euro? Assolutamente no. Ma soprattutto ti chiederei schifo. Per cosa? Per ma cosa? Così, li metto sulla chiavetta per il caffè. No, no, ma guarda, men che meno ti offro un caffè. Sei peggio di Andrea Roccabella, che salutiamo, il nostro regista genovese. Giustamente. Comunque il ecco, che già ci accoglie. Comunque sta roba dei genovesi io non ci ho mai creduto. Neanch'io, sono molto bravi di me a sganciare soldi. No, ci sono altri luoghi comuni su di loro. Insomma. Tra l'altro più tardi poi potremo anche verificarla. Non è diciamo, vero, non spoileriamo esatto nulla però. Allora, il tema di oggi è che i soldi non fanno la felicità, ragazzuoli. I soldi non fanno la felicità. La felicità. Il luogo comune è questo di oggi. Ma che vuol dire poi felicità? Cioè, secondo domanda te, Riccardo, cos'è per te la felicità? La felicità è non dover pensare a nulla. Cioè, bravo, nel senso, la possibilità di non avere la mano sempre sul portafoglio, guardare il conto corrente, perché dici tanto ne ho talmente tanti di soldi, ovviamente legato ai soldi, che dici chi ma se ne sono frega felice. Mi hai un po' rubato l'idea, perché effettivamente anch'io sarei felice quando mi sento libero di fare quello che voglio quando voglio, e due, non devo pensare a momento tristezza, oddio, come non solito ce la fa. No, perché però scusami, non lo so, però scusate, non capisco perché ogni volta che parto io con un racconto è triste. C'è questo luogo comune su di me, su di te, quindi sì, stiamo su di te, stiamo utilizzando i luoghi comuni contro noi stessi. Certo. Riflettete, persone che siete a casa, che ci state ascoltando, riflettete: i luoghi comuni sono delle armi o sono dei cuscini morbidi a cui appoggiarsi e stringersi forte di notte al buio? Ma comunque, scusami, queste le domande perché che solleva questo programma Off Topic. Perché noi stiamo sulla felicità solo sul denaro? Cioè, per esempio, la felicità per me è il soldo. Magari la felicità è correre nudi in un campo, no? Cioè, non c'è mai un immaginario un po' lo diverso dal io, denaro, no? La felicità sono 60k all'anno, ragazzi. No, piano ragazzi, qua io c'è l'ordi netti, no, forse netti sono pochi. Qua c'è 3, l'università di Princeton che ci dice qual è esattamente il K che deve raggiungere il una K, persona. Il cosa K, c'è? Cosa c'è? Euro. Cosa c'è? Per, c'è la, per la signora Maria di, appunto, cosa c'è? Di Seveso. L'università di Princeton. L'università di Princeton. Ma non esistono queste università. Basta. Che fanno le ricerche. I servizi li leggi solo tu. Voi che siete a casa, quando accendete la radio, sentite uno speaker che cita una ricerca di una università. Quante volte l'avete sentito in un anno? Un milione di volte. Quante volte miliardo avete spento la radio sul perché servizio dell'università perché di Princeton? Perché esistono le ricerche delle volete università? Volete sapere sì o no? Sì, infatti, vai, però vai, alla fine prego. Sì, vai. Comunque, le persone diventano più felici al crescere dello stipendio, solo fino a $75,000, ovviamente. All'anno. Parlo di retribuzione annua, un po' più di 60.000 euro, quindi Longoni ci sei. Netti, oltre questa soglia, però, il rapporto di reciprocità cessa, e anche se si guadagna di più, la felicità non aumenta. Ah, hai capito? Cioè, arrivi a un certo punto che ti fermi. Ma esatto, quello che dico io. Mi invece, l'università di Harvard dice che i soldi si sono chiamati. Oh, Harvard, che fate voi? Noi facciamo una roba sui soldi. Noi 75, l'altra 60, i soldi ci rendono più felici solo se li usiamo per comprare tempo libero. Sì, direi di sì. Comunque ragazzi, dobbiamo andare al primo ospite della puntata, ed è l'unico che ci serve, perché se i soldi non fanno la felicità, noi chiamiamo Alfio Bardolla, che ha scritto "I soldi fanno la felicità". Mi sembra perfetto. Nostro, e perfetto, proviamo a smentirlo con lui. Buongiorno Alfio. Buongiorno, benvenuto a Off Topic. Allora, io comincerei subito così dentro il pezzo. Nella prossima mezz'ora, Alfio, noi vogliamo diventare ricchi. Ah, davvero? Sì. Non lo sapevo questo, lo scopro adesso. Comunque va bene adesso. Intanto scusami, per questa intervista noi non ti diamo un euro, questo l'ho preciso, sicuro, perché insomma non abbiamo soldi da dare. Esatto. Peccato, però cercherò di vendere i miei corsi allora. Eccolo subito, l'anima del marketing, capito? Ecco come si fa. Non si perde tempo. Non si perde tempo, esatto. Come facciamo a diventare ricchi in questa mezz'ora? Mezz'ora di tempo. Allora, la prima cosa da fare è la ricchezza, come qualunque altra attività, si può insegnare, si può imparare, quindi come andare in bici. Il problema è da dove abbiamo imparato le cose sul denaro, quindi se ci va bene, abbiamo avuto un papà ricco, l'avremmo imparato la nostra famiglia ricca. però se come me siete partiti da una famiglia povera o da una classe media, purtroppo abbiamo acquisito le informazioni da poveri, da classe media. Perché tu non nasci ricco, giusto, no, Alfio? No, mio papà faceva la capostazione, mia mamma faceva la casalinga e io sono nato davanti a una famiglia ricca invece. Essere ricco è una cosa, essere libero finanziariamente poi è il nostro obiettivo, cioè fare in modo di avere dei soldi che non dipendano dall'attività lavorativa che avete. Quindi voi potete continuare a fare il vostro mestiere radiofonico, fantastico, ho un sacco di amici che fanno il vostro mestiere, però sono quasi tutti poveri con un alto tenore di vita. Visto. Nel senso che magari guadagnano anche bene, però se li spendono e non hanno soldi che non dipendono dal loro tempo. Quindi invece un ricco è una persona che ha un reddito che non dipende dal suo tempo. Ammetto che la domanda è un po' scomoda e ti chiedo di essere veloce nelle risposte. Allora, se puoi, quanto hai in banca il tuo conto in generale? Dipende, perché ne ho più di uno di conto. Facciamo una somma, scusa. Facciamo una somma dei conti, via. Ma allora di cash, avrò 300-400 mila euro. Beh, dai, neanche tanto, forse anche Roccabella. C'hai tutti gli investimenti. È una puttanata la domanda che ve l'avete posta male. Come la devo porre? Quanto è il tuo patrimonio netto? Ecco. Quindi devi considerare che io ho un'azienda quotata in borsa. Sì. Certo. E quindi ad esempio io avrò, non so, 15 milioni, 20 milioni di euro di mie azioni e opzioni. Fantastico. Sui conti correnti. Usi contante? Non sono cash. Guarda, purtroppo sono quasi sempre senza contante. Altra domanda, tu cucini? Prego. No, assolutamente. Vai al supermercato? Purtroppo mangio tanto. Ah, ok. Ma vado al supermercato se capita, però anche mia moglie fa la spesa quasi tutta su Amazon. Online, certo. Ma secondo te c'è una cosa che in Italia si possono permettere solo i ricchi? Ma probabilmente una delle cose che mi piace di più dei ricchi è stare insieme ad altri ricchi, nel senso che non è tanto perché hanno soldi, ma perché hanno una mentalità diversa rispetto al povero, la classe media. Cioè l'italiano ha la tendenza a lamentarsi, noi siamo un popolo di lamentoni, e invece se andiamo a vedere i dati reali siamo nel paese migliore di sempre. Ma non lo dico io, lo dicono i numeri. Ci sono in Italia giusto il 3% della popolazione è ricca, cioè ha più di un milione di cash da qualche parte. Quindi se siamo 60 milioni di italiani, vuol dire che c'è 1.800.000 italiani che non parla, che non dice niente, che ha il suo milioncino cash, non con gli immobili, cash, da qualche parte. Certo. Abbiamo 2.000 miliardi di ricchezza personale, la famiglia media italiana possiede 87.000 euro, la famiglia media tedesca 36.000, la famiglia media americana, noi puntiamo all'America, meno 24.000. E perché c'è questo senso di povertà diffuso? Perché noi siamo dei lamentoni e perché noi la televisione, la comunicazione è fatta per i poveri, per la classe media. Secondo te i poveri sono un'opportunità o un peso? Ma no, secondo me noi dobbiamo stare in uno stato che cerca di aiutare le persone a uscire da questo stato di povertà, che principalmente è uno stato mentale. La verità è che i lavori esistono e che ce n'è tanti, cioè abbiamo bisogno di un sacco di persone che lavorano, ma non abbiamo le persone giuste per i tipi di lavori che servono oggi. Alfio, scusami, una domanda, perché proprio sul lavoro volevo capire, adesso si sta parlando tanto di reddito di cittadinanza, tu cosa pensi di questa misura del governo? È una cagata mostruosa, cioè è una roba assurda il reddito di cittadinanza, cioè io farei una roba al contrario, cioè toglierei le tasse ai ricchi, cioè adesso per darvi proprio... E chi le paga poi? Ma scusate, adesso seguite questo ragionamento, io sono bravo a fare una cosa, ok? Quindi sono bravo a produrre soldi, okay. E se produco soldi vuol dire che produco ricchezza per la nazione, vuol dire che assumo persone, vuol dire che creo benessere. Ecco, perché mi devi penalizzare se io sono bravo a fare una cosa? Dovresti aiutarmi, dovresti favorire il ricco nel dire: ricco, vieni in Italia perché con i tuoi soldi si possono fare un sacco di cose, si può creare un paese migliore. Senti Alfio, la nostra trasmissione parla di luoghi comuni e quindi te ne facciamo un po' così al volo, veloce, per fare due chiacchiere, brucio. Velocissime. Il mattone è ancora un investimento sicuro? Sì o no? Assolutamente sì, ma un mattone per produrre denaro. Altro luogo comune, più ne hai e più ne vuoi di soldi? Non necessariamente, dipende dalle persone. La salute è la più importante? Sì. Beh, assolutamente, i soldi non puoi comprare più salute. Tu investi sulla tua salute, Alfio? Assolutamente. Hai un'assicurazione sulla vita gigantesca, immagino. circa 3 milioni di euro. A faccia? Alla faccia? Ti sei mai fatto una canna, Alfio? No, mai, non ho mai fumato proprio neanche proprio perché mio papà veniva in, a svegliarmi che aveva appena fumato e questa cosa mi dava fastidio. Siamo arrivati all'ultima domanda di questa prima intervista di Off Topic per questo luogo comune che è: i soldi non fanno la felicità. Ti chiedo con un sì o con un no, i soldi non fanno la felicità? In automatico no. Ok, quindi insomma i soldi servono per essere felici, almeno un po', almeno ampliare quel margine. Per creare emozioni, che sono energia. I soldi non sono né bene, né brutti, né cattivi, sono energia che gira. Bella quindi questa, più energia abbiamo e più riusciamo. Però il fatto che tu sei felice o infelice dipende dalla tua psicologia personale, quindi dalla tua filosofia che hai di vita. Ottimo Alfio, grazie. Dal basso della nostra povertà noi, certo, ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie mille Alfio. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. I wanna be Alfio rich. Bardolla. I wanna be rich. Voglio diventare come Alfio. No, io sono colpito da due cose. Il primo, gli italiani sono un popolo che si lamenta. Sì, questo è vero. Ma come colpito? Si lamentano tutti al bar, su Facebook, questo dovunque. È vero, infatti dico, bene, ha beccato un punto. Un punto che tra l'altro dovremmo affrontare in una prossima puntata. Che ne sai, un bel titolo ci sta. Gli italiani sanno solo lamentarsi. Esatto, la faremo, la faremo. E ragazzi, togliere le tasse ai ricchi. Togliere capito? Le tasse ai su ricchi. Togliere le tasse ai ricchi, io alzo le mani. Cioè, ma... cioè qui se Robin Hood ci stesse ascoltando sarebbe tutto finito. L'altra cosa che mi immagino è gente che è ricca che beve il brandy con altri ricchi, perché i ricchi sanno noi stare su... stare tra di noi. Esatto. Cioè però, è una cosa veramente incredibile. Però ha detto anche: i soldi sono energia che deve girare. Emozione, anche emozione. A un certo punto, tu quando apri il portafoglio e vedi 20 euro non senti un'energia. No, però aspetta. E non la senti perché 20 euro, 20 euro c'è cosa il portafoglio. Senti? Che energia vuoi sentire? Io se apro il portafoglio trovo 20, dico beh, mi sono messo bene. Vabbè, anch'io, piuttosto però... che niente, ma è piuttosto. No? Stamattina ho aperto il portafoglio, avevo zero. Sono andato al bar e ho detto: guarda, o prelevo o mi offri un caffè, faccio, te lo pago. Io credito non lo faccio mai a sto giro, glielo ho chiesto. Sono 2 euro focaccia caffè. Invece ragazzi, scusatemi, gli italiani che c'hanno più di un milioncino da qualche parte, ha detto, sono tantissimi. Sono tanti. Ma chi sono che c'hanno il milioncino via? Se avete un milioncino via, scriveteci a offtopic@radio24.it. Siamo noi dei barboni, ragazzi. Siamo noi poveri, dici. Comunque ragazzi, guardate che c'è un metodo facile per fare i soldi, Fare i soldi. Sì, sì, fare i soldi. Stamparli, dai, avere energia, no? No, no, sono in fissa con questa roba. Giocare al Super Enalotto, fare queste cose qua. No, sì, no, sì, no, sì. Ma è vero. Se la fortuna gira bene, non fomentare il gioco. Bisogna giocare responsabilmente. Assolutamente sì. Però ci sono molti casi di persone. Riccardo, non toccare sti temi, sennò ci chiudono in un secondo. Comunque, ragazzi, allora ci sono casi recentissimi di persone che hanno vinto, per esempio, a Chi vuole essere milionario e hanno perso tutto nel giro di pochi anni. Cioè, un milione di euro persi in un attimo. Come fai a perdere ti svegli una mattina e hai perso un milione di euro? Come fai? Sì, no, aspetta, tu la stai raccontando così come se fosse una roba normale. Non è normale vincere un milione e perderli. Lo so, è successo a Michela De Paoli, che è andata tra l'altro ospite da Barbara D'Urso in queste settimane qua, a raccontare la sua storia. Sentiamo un attimino cosa dice. Abbiamo pensato a una gelateria perché abbiamo individuato una zona dove non ce n'erano e abbiamo pensato di aprirla noi. Però non è andata bene. Sì, infatti non è andata. E avete dovuto chiudere. Sì. E quindi da un bel po' che tu, appunto, né tu né tuo marito lavorate. Esatto. E adesso la situazione cos'è? Hai bisogno di un lavoro? Stai cercando un lavoro per te, per tuo marito? Beh, abbiamo ancora qualche soldino da parte, li stiamo amministrando per tirare avanti. Però guarda che non mi sembra preoccupata. Allora, no, però ha perso un milione di euro in pochi anni. Sì, ma come li ha spesi, come li ha investiti? Sì, allora, guarda, tecnicamente ha fatto questo. La crisi di questi anni ha costruito una villetta, ha regalato qualcosa ai parenti, il 20% della vendita. La villetta ce l'ha allora, per Bardolla il mattone ce l'ha, sarà sicurissima. Il 20% della vincita è andata allo Stato e la gelateria che ha aperto col marito è andata in fallimento. Però, per cui, ciao. Però hai sentito che tono di voce sereno? Sì, non era preoccupata. Sei un'altra persona che vorrei coinvolgere in questa puntata di Off Topic. È Biagio Vigna, che a voi non dirà nulla, ma Biagio Vigna è una persona che a gennaio dell'anno scorso alla, diciamo, alla, come si chiama? Alla lotteria di fine anno. Bravissima, lotteria di fine anno. Ma certo, 5 euro l'uno. Ha vinto un milione di euro a Pinerolo e ha deciso di fare un gesto eclatante perché ha donato tutto a sua figlia. Mi ricordo, eroe, sì, quello che ha donato tutto esatto, all'unica figlia. All'unica figlia. allora e Biagio qui con noi. Ciao Biagio. Buongiorno. Eccoci qua. Tu sei stato il fortunato vincitore della Lotteria Italia che al 7 di gennaio del 2018 ha vinto 1 milione di euro. Te, ti sei svegliato una mattina. No, un momento, erano 8,80. 8,80, perché ecco, giustamente certo. Lo sei, Stato. Sei andato subito sul punto divertente della questione. Netti 8,80. Difatti, anche quando noi lavoriamo, ci fa quanto ci pagano? Ci pagano X. Sì, ho capito, ma lordo o netto? Perché alla fine è il netto l'importante. Ascolta, o no? Biagio, fai una cosa, raccontaci come hai appreso di questi, di questa vittoria. Niente, lavoravo in discoteca, erano le 4, le 5 del mattino. E poi sentivo parlare di una vincita a Pinerolo. Allora sono andato dal mio titolare, dove era il padrone della tabaccheria. Sì. E ho detto: senti Piero, ma vero che mi ha vinto 1 milione a Pinerolo, così, così. E lui fa, gli ho detto: dammi subito i numeri, voglio vedere. Avevo il biglietto lì. E me li ha detti, comincia con la P, 46, 29, quando mi ha detto il 26. Non hai visto più nulla, hai capito, certo, che eri tu. Ho scoppiato, guarda. Ma hai pianto? No, che ho pianto, stavo malissimo per la gioia. Ma certo, ci credo. Perché tu, ricordiamo, di lavoro fai il parcheggiatore. Anche il parcheggiatore. Cosa fai oltre al parcheggiatore? Cioè, per arrivare a fine mese, come si... Avevo un furgone, facevo pubblicità. Ah, ok. Ma lo fai ancora questo lavoro oppure no? No, perché il furgone, quando i vigili hanno saputo della vincita, mi hanno sequestrato. No, ma come mai? Sì, e poi il sindaco è andato dai vigili e si è congratulato. Come mai? Complimenti, ma perché non avevo pagato l'assicurazione. Ah, perché non avevi pagato l'assicurazione. Vabbè, ma insomma, cose che si possono risolvere. Ascolta, tu a un certo punto hai deciso di donare questi soldi, di regalare questi soldi a tua figlia. Esatto. Come mai? Perché ormai a 65 anni cosa me ne facevo? So che lei aveva bisogno, che ho preso e glielo dai tutti a lei. Ma ti sei tolto qualche sfizio prima di dargli a tua figlia? Ah, beh, sì, quello sì. Tipo? L'alloggio, perché non è che vivevo dentro una villa, quindi l'alloggio, la macchina e la mia pacchetta mensile. Quindi sei comprato casa proprio? Sì, sì. Ascolta, ma tu stai bene? Sei felice? Io sto benissimo, sì, contento, altro che. E alla pensione quanto ti manca? Ah, non lo so, quando decidono loro. Loro non chi? Quello dello Stato. Ah, giusto, giusto. Ma quindi tu sei favorevole o meno al reddito di cittadinanza? No. Quindi non sei favorevole. Quindi non lo chiederai nel caso in cui. No, per niente. Ah, ok. Cosa me ne faccio? Ascolta, ma sei fatto vivo qualche parente? Cioè, parenti, tipo? Tanti, tanti amici, signore che c'hanno la figlia che c'ha il tumore, quello che c'ha l'altro. Ma poi anche quando sono andato là da la, come si chiama, la presentatrice, la Rai, Mediaset. Mara Venier, no, la... La bionda. Eleonora Daniele. D'Urso. Paola, ragazzi, Dunci. Barbara D'Urso. Perché Barbara D'Urso, quella. Per carità. Ma come per carità? Non ti piace, non Barbara D'Urso? No, per niente, per troppo buffona. E serve un programma pieno di lesbiche, di froci, eccetera. Ma no, Biagio, non si può dire. No, la D'Urso, no. Panicucci, quindi... Ah, ecco, la Panicucci, dicevi. Poi mi fa... Ma non facciamo, dopo questa vincita, non facciamo una piccola donazione? Ho detto no, per niente, a chi devo fare la donazione? Tu non hai donato nulla? No, niente. Ah, ok. Quanto l'hai pagato tu quel biglietto? 5 euro. Ed è vero che era l'ultimo biglietto rimasto in tabaccheria? Erano 3. Ah, ok. 3-4 biglietti. Senti, ma i soldi non ti sono arrivati subito? Dopo quanto tempo sono arrivati? Dopo 2 mesi e mezzo. Ma te li hanno consegnati su un conto? Andato tutto bene? Qualche problematica? No, è andata mia figlia. L'hanno messo direttamente sul conto di mia figlia. Ho capito. Secondo te esiste la fortuna, Biagio? Madonna, se esiste. Non te lo immagini nemmeno, guarda, da un momento all'altro. Una cosa che mi sono chiesto, Biagio, quando ho letto la tua storia, è: di solito difficilmente le persone che vincono poi rivelano la vittoria, rimangono spesso nell'anonimato. Come mai tu? Non ho paura, non me ne frega niente di nessuno. Hanno solo da venire, io li aspetto a braccia aperte. Ah, hai capito, Biagio, è un tipo con la schiena dritta, direi. Dai, vorrei vedere. Allora, Biagio, io ti devo fare questa domanda di rito, che è il luogo comune che stiamo un po' andando a scandagliare in questa puntata. Devi rispondermi con un sì o con un no. Secondo te è vero che i soldi non fanno la felicità? I soldi fanno come la felicità? Meno pensieri, meno problemi. Vivo più tranquillo, cammino a testa alta, dove vai vai. Tutti ti rispettano, tutti ti salutano. aiutano. Nessuno mi rompe le palle, sto benissimo. Beh, certo. Fantastico. Perfetto. Va bene. Grazie mille, Biagio. Grazie mille di essere stato off topic. Buona fortuna. Prego, grazie. Grazie, grazie Biagio. Buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. Insomma, il Vigna è, come dire, colorito, nel sì, vivace il ragazzo. Vivace, vivace, però ragazzi, interessante. Però di certo non li ha buttati via, né li ha persi come la vicenda di prima. Li ha ancora lì. Anzi, li ha proprio affidati. È nella cassaforte, la figlia sostanzialmente. Ragazzi, io vi propongo una cosa. Quando ero ragazzino, avevo questo progetto, che poi non è andato in porto, di chiedere, a un certo punto ho pensato, io giro per l'Italia e chiedo a tutti gli italiani, l'hanno pensata tutti una volta sta cosa. Un euro. Ma no, un euro a tutti gli italiani sono 58 milioni di euro. Cioè, no, scusa, aspetta. Perché tu entri così e mi lasci un attimo. Allora, tu da quando eri piccolo cosa volevi fare? Buongiorno, mi chiamo Giuseppe. Sì, mi dà un euro. Mi dà un euro in realtà, questa, all'epoca c'erano ancora le lire. E ottenere 58. Come è andata a finire? Male. Non l'ho mai fatto. No, ho sparato mai, però non è andata bene. Quindi, scusa, tu saresti tecnicamente un arricchito. Saresti diventato un arricchito tecnicamente. Sì, sarei diventato un arricchito. Perché un altro luogo comune veramente forte sul tema dei soldi è il ricco e l'arricchito. Sai quando il ricco annusa già l'arricchito e dice mamma mia, quanto è cafone. Che povertà, che cafone, esatto. Si siede al tavolo con noi, guarda come beve il tè. Guarda, mamma non sa neanche prendere in mano. Comunque, torniamo sempre alla solita questione. La gente si lamenta degli altri. Perché ci lamentiamo costantemente? Perché siamo un popolo di invidiosi, Alessandro. Sì, siamo rosiconi. Rosiconi, ma e comunque, ragazzi, se a me dai 600.000 euro all'anno, sono contentissimo, non rosico. Lui già 100, tu sei partito da 60, lui è già andato a 100. No, lui 600. Lui ne vuole ancora di più. Tantissimi. Ma che te ne fai tutti questi soldi? Perché sapete il paradosso di Esterlin cosa dice? Ma ti prego, Riccardo, raccontaci il paradosso di Esterlin. Quando acquistiamo un nuovo bene di consumo, viviamo un miglioramento temporaneo, ma poi la nostra sensazione di benessere ritorna al livello precedente. Ah. Quindi ci abituiamo anche ai 600.000 euro. È come quando compri un paio di scarpe e subito dopo stai bene, no? Sì, però poi ti passa e ne vuoi un altro rivuoi. Paio. Esattamente. Allora, ragazzi, facciamo un recap. Il primo ospite, Alfio Bardolla, ci ha detto che siamo dei poveracci. Cash machine, è l'unica cosa che mi è rimasta impressa. Ci ha spiegato che comprarla. In mezz'ora si fanno, so, 10.000 euro, li fa lui, io non li faccio. No, grazie. Io li perdo, esatto. Io perdo un K ogni mezz'ora. Esatto. Stando con noi. Secondo ospite Biagio Vigna ha vinto un milione alla lotteria, in realtà 880.000, perché poi il fisco ovviamente è andato, esatto. E tutti e due però hanno detto che i soldi fanno decisamente la felicità. Esatto, noi stiamo cercando di dimostrare che i soldi non fanno la felicità. Bravo. Oppure il contrario, non lo so, dove decidere il nostro giudice. Siamo andati su un artista, così, esatto. Almeno lui ci risponderà, lo spero, ma no, voglio dire, l'arte, la poesia. Viva la poesia, la bellezza, della povertà. Com'è che è il bicchiere di vino a bocca d'asse, sì. Quelle storie lì. E infatti siamo andati a Genova e siamo con Luca Bizzarri, che non ha bisogno di presentazioni. Ciao Luca. Eccolo, ciao, ciao. Allora Luca, io sono figlio di Paolo Villaggio. E quindi vi dico, citando Paolo Villaggio, che la felicità è un senso di benessere economico. Mi piace, economico. Questo diceva lui, sì, questo diceva lui. Ed ecco che fece subito il collegamento tra felicità e soldi. E soldi, subito. Poi tra l'altro tu non hai ancora figli, abbiamo parlato anche nella puntata di chi lascia i soldi ai figli. Tu lasceresti tutto, se dovesse mai capitarti qualcosa fra un secolo, a il tuo amico Paolo? Ma neanche per sogno. Ma come? Va bene, a posto. Tutto me li porto nella tomba. Vabbè, cioè a tutti tranne che a lui. No, a lui dipende malissimo, cioè tu pensa uno che... vegetariano, va in bicicletta, già la famiglia, cioè tutti i modi per spendere i soldi. Male, non se la gode. Male. Ascolta Luca, ma domanda schietta, tu sei ricco, ti senti ricco? Economicamente parlando? Beh, io credo che ognuno abbia il suo modo di sentirsi ricco. Il mio modo di sentirmi ricco è di non pensare a quanto c'ho in banca. C'è gente a cui non basterebbe questo, c'è gente che poi vuole la barca, che poi vuole... Io invece ho un modo di vivere abbastanza tranquillo e una volta che riesco a vivere come voglio, senza dovermi preoccupare di quanto c'ho in banca, mi sento ricco, sì. Pensa che poco fa Alfio Bardolla ci ha detto che lui toglierebbe le tasse ai ricchi. Sì. Per farle pagare ai poveri e alla classe media, esatto. Farle pagare... io. Questo non l'ha aggiunto, lo aggiungiamo noi. Però lui ha detto: bisogna levare le tasse ai ricchi. Cioè, se fanno soldi e quindi fanno, come dire, producono ricchezza, bisogna lasciarli liberi di imperare nel capitale con, non so, il sole in fronte e le braccia aperte, tipo sul Titanic. Non... mi viene da aggiungere. Non sono molto d'accordo. Anche se in parte, secondo me, già un po' funziona così. Dici, siamo sulla strada giusta. Direi. Senti, Luca, io ti faccio una domanda, andiamo subito sulle cose che interessano a me, cioè le donne. Quando esci con una donna, paghi tu? Sì. Sempre? Sì. Cioè anche la seconda sempre. Volta, la terza volta? Anche, ma anche quando esco con un uomo. Ah, davvero? Che io sono odio la romana. Per cui proprio la odio fare la romana. Cioè quel momento davanti alla cassa, cosa facciamo? Esatto, quindi tiri fuori il portafoglio. Io vado e pago. Poi se c'è qualcuno che è più veloce di me o mi dice no, stavolta tocca a me, faccio fare. Non è questa che cosa mi metto a litigare. È poco però genovese questa cosa. Molto sbaglio. Poco genovese. Ma guarda, poi i genovesi sono stichi, ma più su altre cose che sui soldi. Sono cioè di sentimenti, di dimostrazioni di affetto, di entusiasmo, di tante altre cose. Ma sui soldi ne conosco naturalmente un sacco di genovesi con le pietre in tasca, di quelli che non mangiano per non cagare. Senti Luca, ma scusami, è vero che Gianni Morandi occhio, Gianni Morandi è il demonio, non lo sapevate? Sì, no, una vaga idea ce l'avevamo. Lui è Satana, è il male. Io l'ho visto a uno spettacolo presentato da me cadere da un palco di 3 metri di schiena. Ah, è vero. No. 2 anni fa. Sì, sì, con e non farsi assolutamente niente. C'è una cosa che se fosse successa a me mi sarei spaccato l'osso del a metà, corpo. Esatto. Lui che ha più anni della focaccia è caduto e non si è fatto niente, nulla, capito? Ecco, e forse io ho pensato questo è il immortale. Ma forse i soldi, ritornando al nostro argomento, è vero che non fanno la felicità, ma in caso di salute e cose di questo genere servono assai, cioè nel senso è un classico luogo comune, ma insomma purtroppo sì. Senti, uno dei luoghi comuni in Italia fino al governo giallo-verde era che almeno si dice che i politici rubano gli stipendi. Sfatare, da sfatare confermare. O confermare, i politici rubano lo stipendio, secondo te è vero? No, secondo me dovrebbero essere pagati di più. Un sindaco di Genova che prende 6.000 euro al mese, secondo me è una stupidaggine. E che non viene neanche riconosciuto per strada, tra l'altro. Non viene neanche riconosciuto per strada e che in ogni atto, soprattutto in una città difficile come Genova, rischia di andare in galera perché ha messo la firma sbagliata. Esatto, è vero. Allora Luca, chiudendo, perché dobbiamo un attimo stringere, ti dobbiamo fare la fatidica domanda che facciamo poi a tutti, al giudice delle varie puntate. Secondo te è vero che i soldi non fanno la felicità? No, non è vero che i soldi non fanno la felicità. I soldi fanno parte della felicità, purtroppo. Quindi viva i soldi, insomma, alla fine. No, e viva anche i soldi. Anche i soldi. A ognuno ha la sua cifra per essere felice, credo. Beh, grazie mille, Luca. Allora grazie, ci vediamo Luca. Stasera a cena che offri tu, giusto? Bene, ok. Grazie. Grazie, Luca. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Non mi sembrava convintissimo, è bizzarro. No, direi proprio di no. Cioè, è tornato sì, a sì, noi. Sì, certo, come no. Mi saluto. Aspettatemi al ristorante che arrivo. Era molto genovese in quel sì, sì, certo. Cioè, proprio. Ma secondo me cosa... se avessimo chiesto dei soldi ai nostri 3 ospiti di oggi, ce li avrebbero dati. Ma secondo, no, me secondo me Bardolla sì. Bardolla un 20 sì, euro. Sì, secondo me Vigna forse ci dava qualcosa. Forse Vigna sì, per gestirli, non Vigna so. Vigna ci dava una testata, forse. L'unica cosa che portavamo a casa. Comunque vorrei chiudere la puntata ricordando una cosa che disse Tiziano Terzani, ovvero bisogna avere la capacità di accontentarsi. Sì, lo credo anch'io. No, esatto, grazie Riccardo di questo contributo. No, ragazzi, gli dico meno male che c'è Riccardo che studia, che legge, che approfondisce. Certo, noi arriviamo sempre con in mano nulla. Ti rispondiamo con l'importante è la salute, caro Riccardo. Sì, certo. Grazie, pure non bisogna mangiare prima di buttarsi in acqua. Che poi non è vera sta roba. No, è vera. No, è vera. Cioè non bisogna fare troppa attività che ruba ossigeno allo stomaco. Quello può darsi. Ma quanto sei bravo Riccardo. Ragazzi, le sa tutte, ragazzi. Va bene, niente, ci sentiamo alla prossima. Grazie, scriveteci, ci trovate dove su dove si scrivono? Off topic @radio24.it. Ah, me la sapeva. Giusto, allora, giusto. Bravo Alessandro. E poi la pagina Facebook, off mi raccomando. Off topic Radio 24. Ciao. Alla ciao. Prossima. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.